L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, ci siamo lasciati alle spalle gli ultimi giorni di feste, purtroppo la mia voce, e me ne scuso, ne risente ancora, e comunque l'ottavo giorno si rimette in moto con la sua formula ormai abituale. Nella prossima ora faremo un rapido ripasso delle notizie dell'ultima settimana, partiremo da sabato scorso 2 gennaio e arriveremo fino a ieri 8 gennaio. Riascolteremo una serie di servizi già andati in onda nei GR di Radio 24 e naturalmente ascolteremo il prezioso contributo di un paio di giornalisti del Sole 24 Ore. Partiamo allora nel nostro viaggio a ritroso di questa settimana dalla politica, che sta uscendo dal breve letargo che si è imposto in questo periodo di Natale, in questo periodo di feste. Direi che in questi giorni la parola che più aleggia nell'aria è quella delle riforme. C'è in fondo anche ancora l'influsso benefico dopo l'aggressione a Silvio Berlusconi, parlo del clima bipartisan che si è un po' diffuso appunto nel Parlamento. L'incidente a Berlusconi è capitato ormai quasi un mese fa, ma secondo me attorno a questa parola riforme sono più quelli che girano intorno, parola diventata ormai un totem che presto sarà seppellita, direi, dalle macerie della campagna elettorale per le regionali, che in fondo è già cominciata. Poi c'è chi non ha mai avuto un linguaggio felpato, nonostante i tanti moniti, i tanti richiami di Napolitano del Presidente della Repubblica. Mi riferisco per esempio a Brunetta, che sabato scorso ha ribadito la sua voglia di cambiare la Costituzione, addirittura partendo dall'inizio, cioè dall'articolo 1, quello che recita: la Repubblica italiana è fondata sul lavoro. E poi domenica va giù duro, ma questo in fondo non è una novità, forse è il suo primo affondo del 2010, Di Pietro, e questa volta il suo bersaglio è Napolitano. Sentiamo Alessandra Schepisi. È bufera su Di Pietro mentre PD e PDL tentano di riannodare il delicato filo del dialogo sulle riforme. Il leader dell'Italia dei Valori torna ad attaccare il capo dello Stato, definendo incauto il suo appello perché, spiega, ha messo il vento in poppa alla barca dei pirati. In particolare si riferisce Di Pietro alla contestata proposta del ministro Brunetta di modificare anche la prima parte della Costituzione. Immediata la replica del PDL, torna in azione il nucleo d'odio, attacca il capogruppo alla Camera Cicchitto, mentre il portavoce Capezzone parla di strategia eversiva. Tutto il PDL chiama in causa il PD e la sua alleanza con l'Italia dei Valori. Ma i democratici criticano duramente Di Pietro. Il vice segretario Letta lo accusa di portare il centro-sinistra nell'abisso e di dimostrarsi così il migliore alleato di Berlusconi. Intanto si continua a discutere anche nel merito delle riforme. Il leader della Lega Bossi propone di creare una convenzione, cioè un organismo apposito per varare la nuova struttura istituzionale, proposta che però non piace né a PDL né a PD. Ricordiamo che Di Pietro è lo stesso che a Natale ha mandato la lettera a Gesù Bambino invitandolo a liberarci di Berlusconi. In qualche modo ha voluto seguire il suo esempio, lo ha preso la lettera un compagno di partito, l'ex PM De Magistris, che in questi giorni ha proposto il suo personalissimo lodo. In parole povere, De Magistris propone di dare a Berlusconi la possibilità di andarsene in esilio un po' impunemente per però liberare l'Italia dalla sua presenza. Non mi sembrano comunque, se voglio vedere, interventi di grande statura politica. Detto questo però voglio, ed è giusto, segnalare e biasimare l'atto di vandalismo che c'è stato invece nei confronti della targa della segreteria di De Magistris a Catanzaro. In sostanza è stata imbrattata da degli imbecilli nella notte della Befana. Tra poco però parleremo di Calabria in modo speciale, perché ci sono stati fatti gravi, la bomba esplosa a Reggio Calabria domenica. Mercoledì intanto, in attesa della sua prima apparizione pubblica ufficiale dopo l'incidente, dopo l'infortunio del Duomo di Milano, Berlusconi parla di riforme, naturalmente dal suo punto di vista. Sentiamo Elisabetta Fiorito. In forma e pronto a rientrare al lavoro, Silvio Berlusconi interviene in collegamento telefonico ad una riunione di europarlamentari. Sto bene, sono di buon umore, nei prossimi giorni tornerò a Roma. Il 2010 sarà l'anno delle riforme. Partiremo con la giustizia per proseguire con la scuola e con la riduzione delle tasse. Riforme da fare con o senza l'opposizione, perché Berlusconi premette andremo avanti con determinazione e senza esitazioni. Non manca uno sguardo al momento attuale, dove, sottolinea Berlusconi, il terrorismo internazionale è tornato a farsi sentire. Noi dobbiamo essere uniti ed essere il partito dell'amore contro l'odio. Ma è giallo sulla riduzione delle tasse. Il portavoce Paolo Bonaiuti smentisce in serata che Berlusconi abbia mai detto di abbassarle nel 2010. Sulla riforma fiscale intervengono anche i sindacati. Per Luigi Angeletti Will la priorità è la difesa del potere posto di lavoro, poi la riforma del fisco, mentre Raffaele Bonanni CISL auspica un patto tra governo, opposizione e parti sociali per fare la riforma fiscale e risollevare i consumi. Tra pochi minuti ascolteremo anche quello che ha detto Bersani nel suo primo ufficiale intervento del 2010, anche lui ha parlato di riforme, ma poi soprattutto ha parlato del nodo delicatissimo delle regionali, soprattutto Puglia e Lazio, che sono le due regioni più sensibili, più nell'occhio del ciclone in questi giorni. Ma martedì arriva un'altra notizia importante che riguarda dossier scottanti, servizi segreti, rapporti con la politica. Sentiamo Raffaella Calandra. Segreti di Stato, dossier e 007. Mentre a Perugia la procura chiede il rinvio a giudizio per l'ex capo del Sismi Niccolò Pollari e per Pio Pompa, per l'archivio di Via Nazionale, Palazzo Chigi manda a Milano la conferma del silenzio sui rapporti tra l'intelligence e la security Telecom. Il disvelamento di certe informazioni danneggerebbe lo Stato, scrive il Premier nella lettera al giudice con cui ribadisce il segreto opposto nel processo sui dossier illegali dell'ex capo dell'antiterrorismo Sismi Marco Mancini. Questi dati, si legge, riguarderebbero le relazioni internazionali e potrebbero minare la credibilità degli organi di informazione e pregiudicarne l'efficienza. Dovrei svelare i tentativi di penetrazione di organismi di spionaggio stranieri e attività del Sismi nei confronti di logge massoniche segrete, scrisse tra l'altro Mancini nello opporre il segreto di Stato. A quel punto il GUP inviò gli atti al Premier, che ora conferma in modo parziale, si specifica, la riservatezza. Linea già percorsa da Palazzo Chigi, anche nell'inchiesta sull'archivio di Pompa, funzionario del Sismi, per il quale la Procura di Perugia chiede il rinvio a giudizio insieme al suo ex capo Pollari per peculato. In Via Nazionale a Roma furono trovati dossier su toghe, giornalisti e volti pubblici nelle indagini sul caso Abu Omar. Altra storia di spie e segreti. L'ottavo giorno. Continuiamo il nostro racconto dell'ultima settimana nella politica italiana. Da una parte, per esempio, ci sono notizie che qualcuno direbbe serie e gravi. Per esempio, c'è la cassa integrazione che è arrivata a dei livelli record nel 2009. Ci sono i recentissimi freschi dati diffusi giovedì dall'INPS, che dice che l'anno scorso sono state autorizzate 918 milioni di ore di cassa integrazione, con un aumento del 311%, quindi un aumento spaventoso rispetto al 2008. Nel frattempo l'Istat dice a novembre che la disoccupazione è arrivata all'8,3%, che è questo un dato vertiginoso che fa davvero paura. Si tratta del livello peggiore dall'aprile del 2004. Dall'altra parte però invece segnaliamo, registriamo le manovre, a volte sotto il tavolo, piuttosto bizantine direi, per le regionali, perché in questi giorni si è discusso molto soprattutto di due regioni che sono poi cruciali, saranno cruciali tra pochi mesi per capire chi ha vinto e chi ha perso, tra PDL e PD, tra destra e sinistra, e sono la Puglia e il Lazio. Nel Lazio ci sono un candidato, anzi ce ne sono due, c'è la Polverini per il PDL e poi c'è la Bonino che è scesa in campo proprio martedì negli ultimi giorni, però da un lato la Polverini viene attaccata da Feltri sul giornale, di fatto l'ha definito un Epifani in gonnella, naturalmente il pretesto è sempre quello, cioè attaccare, colpire e fini. Nel PD invece direi che la situazione è di notte fonda, perché è stato dato un mandato esplorativo a Zingaretti. Nel frattempo, come detto, la Bonino è entrata in campo, però l'UDC si è subito sfilata, si è subito dissociata, perché ieri ha annunciato ufficialmente l'alleanza con la Polverini. E così a naso mi sembra che la bilancia del voto dopo questa iniziativa del partito di Casini penda abbastanza decisamente dalla parte della Polverini, ma naturalmente mancano ancora molti mesi al voto. Poi c'è la Puglia, tutt'altro discorso, dove soprattutto abbiamo assistito nelle ultime settimane alla guerra durissima, spietata a sinistra tra Vendola ed Emiliano. Il PD ha provato a giocare la carta Boccia, che fu sconfitto a suo tempo, 5 anni fa, alle primarie proprio da Vendola, e Boccia piace però all'UDC, che naturalmente sa di pesare a sua volta nella vittoria in Puglia, come in altre regioni, con i suoi voti. Il rebus è davvero complicato, ha provato giovedì Bersani a mettere dei paletti, dei punti fermi. Sentiamo che cosa ha detto in questo servizio di Alessandra Schepisi. Se corriamo da soli vinciamo in 3 regioni, di certo non voglio che sia questo il risultato. Pierluigi Bersani spiega così la sua linea sulle regionali, obiettivo rendere più competitivo il PD. Per questo stiamo lavorando, dice il segretario, ci sono ancora nodi da sciogliere, ma il tempo c'è. Sulle eventuali primarie della Puglia deciderà l'assemblea regionale del PD. Quanto a Lazio, Bersani esclude pressing su Enrico Letta. Nessuna pregiudiziale invece sulla Bonino. Noi siamo disponibili a vedere nelle diverse regioni, questo come atteggiamento generale, poi è chiaro che va vista regione per regione, e anche forme di dialogo, di convergenza con i radicali. Nella sua prima conferenza stampa del 2010 Bersani fa anche il punto sul dialogo con il PDL. Siamo disponibili a discutere di riforme già da domani e quindi anche se ci sono le regionali, ma niente tsunami sulla giustizia. Berlusconi deve dimostrare davanti alla nostra disponibilità se mette davanti se stesso o i problemi del paese. Ma la giustizia non deve essere la priorità, l'agenda delle riforme per Bersani è un'altra e al primo posto ci sono il lavoro dei giovani, la scuola e il carico fiscale su imprese e lavoratori. Devo dire che mi ha colpito molto l'espressione che ha utilizzato Bersani, una delle cose che ha detto Bersani, cioè se corriamo da soli, riferito al PD, vinciamo in tre regioni, direi un bilancio spietato. Però visto che abbiamo parlato molto di Puglia in questi minuti, veniamo a quella che è la grave questione che ruota attorno alla sanità pugliese, che è esplosa in questi giorni con la morte di due neonati e un adulto a Foggia e Bari. Sentiamo la situazione aggiornata giovedì con Adriana Fracchia. Mentre la Procura della Repubblica porta avanti un'inchiesta in cui risultano indagate 30 persone, l'azienda ospedaliera pugliese ha aperto un'indagine interna sulla morte dei due neonati agli ospedali riuniti di Foggia. Il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, intanto nel condividere il profondo dolore dei familiari dei due neonati morti, ha disposto d'intesa con la Regione Puglia l'invio di alcuni ispettori ministeriali. Mentre Leoluca Orlando, presidente della Commissione parlamentare sugli errori sanitari e disavanzi regionali, ha chiesto una relazione all'assessore della sanità pugliese per chiarire lo svolgimento dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Dietro il chi dell'errore ci sta quasi sempre un perché, quell'errore. Il perché è legato a ragioni logistiche, organizzative, e non si può pensare che l'assessore regionale, che il governo regionale, che il direttore generale risponda soltanto per come spendi i soldi e non per come si uccidono le persone. Domenica a Reggio Calabria è successo un fatto gravissimo e inedito, quello che si dice in gergo un salto di qualità, perché l'andrangheta, come qualcuno ha scritto, si è sicilianizzata e per la prima volta ha colpito con un attentato degli uffici giudiziari. Sentiamo i dettagli della cronaca con Raffaella Calandra. L'andrangheta sfida le toghe e con un ordigno invia il suo messaggio di minaccia ai nuovi magistrati di Reggio Calabria. Una bombola di gas da 10 kg collegata a tritolo è esplosa ieri prima delle 5 a Piazza Castello davanti agli uffici della Procura Generale. Le telecamere hanno inquadrato due persone coperte dal casco accendere la miccia e scappare in scooter. 20 minuti dopo un ordigno analogo ha danneggiato una pescheria nel quartiere Santa Caterina, come era accaduto nei giorni scorsi nei bar dei parenti del pentito di Giovine. Noi ci occupiamo anche della confisca dei beni, ricorda il neo PG Salvatore Di Landro, regino insediatosi il 5 dicembre e da subito presente in questa città di ampie zone grigie. La rilevanza, la professionalità fanno pensare si sia voluto attaccare l'ufficio di procura generale. Davanti a sé la procura generale ha importanti processi d'appello e l'attentato potrebbe essere una minaccia in vista di queste scadenze, come pure la risposta dopo le confische dei beni e il sequestro di 500 kg di cocaina nel porto di Gioia Tauro. E solo negli ultimi mesi 60 latitanti sono stati arrestati. Il vento, insomma, è cambiato e l'andrangheta lo ha sentito. A Reggio Calabria in questi giorni inviato del Sole 24 Ore c'era Roberto Galullo, che tra l'altro ha anche una voce molto familiare qui a Radio 24 con il suo Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Buongiorno Roberto. Buongiorno a voi. Allora Roberto, abbiamo riascoltato la cronaca di domenica scorsa della collega Raffaella Calandra, abbiamo spiegato come l'andrangheta abbia fatto un salto di qualità colpendo con una bomba un palazzo dello Stato, e tra l'altro le immagini che abbiamo un po' visto tutti hanno dimostrato che il guidatore dello scooter che ha depositato poi la bomba in procura è una donna, anche questo è stato un fatto che ha stupito qualcuno. Sicuramente l'andrangheta non voleva uccidere con questo gesto, perché non l'avrebbe fatto di domenica all'alba, insomma in un orario in cui non c'era nessuno naturalmente negli uffici, però sullo sfondo c'è un mosaico piuttosto complicato sul quale naturalmente vorrei sentire il tuo parere. C'è evidentemente un cambio di rotta in procura, per qualcuno non più così accomodante come prima con la malavita organizzata in Calabria, soprattutto si è detto nelle sentenze di appello di solito più miti rispetto a quelle di primo grado. Poi ci sono gli arresti numerosi di latitanti degli ultimi mesi, c'è il discorso complicatissimo e controverso della confisca di beni mafiosi e il loro riutilizzo. Se vogliamo c'è anche la polemica attorno a questo governo, se stia o meno facendo una guerra senza quartiere contro le mafie. Insomma, Roberto, ti ho messo in campo un mosaico, come detto, piuttosto complicato. Lascio a te l'onere e l'onore di un po' ricomporlo anche con quello che hai visto direttamente con i tuoi occhi in questi giorni. Ma io direi che le svolte che ci sono state in Calabria, segnatamente a Reggio Calabria, sono state due. Tu hai giustamente ricordato quello nella Procura Generale con l'arrivo di Salvatore Di Landro. Io ricorderei anche quella nella Procura Ordinaria, dove alcuni mesi fa è arrivato Giuseppe Pignatone da Palermo. La svolta impressa da un pool antimafia nella Procura Ordinaria e il cambio di rotta nella Procura Generale con Di Landro hanno cambiato le carte in tavola, perché da una parte non c'è più alcun sconto nella repressione continua nei confronti delle cosche, e parlo della Procura Ordinaria. Dall'altra, con l'arrivo di Di Landro nel novembre del 2009 non ci sarà più alcuno sconto in fase di appello. Che cosa accadeva nel passato? Che la pubblica accusa che doveva sostenere poi i capi di imputazione a seguito della sentenza di primo grado, spesso in appello, in corte di assise d'appello, vanificavano di fatto il lavoro svolto in primo grado. E a volte la pubblica accusa per conto della procura giungeva addirittura a chiedere l'assoluzione a fronte di condanne in primo grado di 9, 10, 11, persino 20 anni. Il vento è cambiato. Di Landro ha detto, lo dico in soldoni, portatemi tutti i fascicoli di tutti i procedimenti che verranno svolti in appello, portatemi tutti i capi di imputazione e i dispositivi delle sentenze. Voglio istruirle io. Mi fido di me stesso perché so come lavoro e voi mi dovete adeguare. Questi due passi sono stati una svolta intollerabile. E quindi Roberto, tu sostieni che essendo cambiato il vento è cambiata anche la strategia dell''Ndrangheta, che è passata alle maniere forti. Ma a tuo giudizio, siccome qualcuno ha parlato anche di una possibile trattativa con lo Stato, quindi qui ritorniamo anche ai discorsi, se vogliamo, di Papelli 92-93, insomma quel periodo torbido con mafia e Stato, secondo te è possibile arrivare ad un discorso simile tra 'Ndrangheta no. e Stato? No, io non credo assolutamente ad una trattativa tra 'Ndrangheta e Stato, questa mi sembra fantascienza, sono circolate queste ipotesi e qualche collega di peso si è addirittura spinto ad ipotizzare la presenza di servizi segreti deviati. Non è questa la storia dell''Ndrangheta in questo momento. Direi che poi ieri Maroni ha escluso categoricamente ogni tipo di ipotesi. A proposito di Maroni, Roberto, scusami, ma abbiamo due minuti e ho almeno due domande fondamentali. Certo. E ci tengo alla tua risposta. Vorrei innanzitutto capire da te quali sono state e soprattutto che giudizio dai delle risposte dello Stato. Maroni giovedì ha detto ufficialmente che la sede dell'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati alla Mafia sarà a Reggio Calabria, e direi insomma che non ci vuole uno scienziato per cogliere il valore anche simbolico di questa scelta. D'altra parte Alfano ha promesso più magistrati in Calabria e ha detto insomma che la stessa parola 'Ndrangheta apparirà ufficialmente per la prima volta nelle leggi di mafia. Io non lo sapevo che c'era questa assenza e mi ha piuttosto colpito. Insomma, lo Stato come si sta muovendo, il governo soprattutto in questi momenti concitati, quindi cerchiamo anche di andare oltre l'enfasi di questa situazione e la demagogia che in parte c'è anche involontariamente in queste fasi. Certo, premettendo che del colore politico dei governi non mi interessa assolutamente nulla, ritengo queste risposte di questo governo ordinarie e scontate. Sembra di assistere ad un film in realtà già visto, già nel 2006, quando ci fu la tragica uccisione del vicepresidente del Consiglio regionale calabrese Francesco Fortunio. Anche allora lo Stato reagì con più uomini, più mezzi, più magistrati, più risorse. C'è da chiedersi, in questo anno è cambiato qualcosa? La risposta è sì, la forza economica dell''Ndrangheta è sempre più forte, così come la repressione dello Stato è sempre più forte, ma non è così, a mio giudizio, o solo così che si combatte la forza dell''Ndrangheta. Ultima cosa, chi ha seguito la puntata di Anno Zero di Santoro di giovedì ha notato una interessantissima e per certi versi sconvolgente intervista che l'inviato a Reggio Calabria Sandro Ruotolo ha fatto all'onorevole Napoli, che è un personaggio di punta del PD, una donna che si batte da tanto tempo contro l'andrangheta in Calabria, e ha parlato facendo nomi, quindi senza paura, insomma, di quello che diceva, assumendosi naturalmente tutte le responsabilità, di una vera e propria transumanza, di una vera e propria migrazione di uomini politici da sinistra a destra, diciamo dalla coalizione del PD a quella del PDL, che quindi viene data per vincente dai bookmaker della 'Ndrangheta con Scopelliti, dicendo insomma che quindi si sta avviando un vero e proprio capovolgimento nel panorama politico calabrese. Tu come hai preso queste affermazioni dell'onorevole Napoli? Allora, anche qui devo dire che non c'è assolutamente nulla di nuovo sotto il sole. Chi conosce la storia della politica calabrese sa che qui non esiste colore politico. Le masse politiche si muovono a seconda della convenienza degli interessi economici. Già nelle scorse legislature abbiamo assistito a straordinarie transumanze dalla destra alla sinistra al centro, senza alcun pudore, senza alcuna vergogna. Sarà così anche questa volta. Nel momento in cui stiamo parlando a bocce ferme, il vento tira verso il centrodestra, perché c'è un politico forte che li rappresenta come candidato governatore, Peppe Scopelliti, sindaco di Reggio Calabria, e anche perché il centrosinistra oggi non ha ancora un candidato. Il vento oggi ispira verso il centrodestra e di conseguenza tutti gli interessi socio-economici, che non sono scevri ovviamente dai contatti, dalle collusioni con l'Ndrangheta, si muovono seguendo questa scia. Candidato che il PD, secondo logica, credo dovrebbe trovare in Loiero, essendo governatore uscente, però qui sarebbe complicato entrare in questo discorso. Ultimo flash di pochissimi secondi, invece lo voglio spendere su Rosarno, paese entrato nella cronaca in queste ore, nelle ultime ore, perché c'è stato un episodio insomma piuttosto complicato, complesso, di scontri tra immigrati e cittadinanza locale. C'è di mezzo anche qui tantissima roba, insomma c'è l'immigrazione, c'è lo sfruttamento, c'è la miseria, anche qui entra l'Ndrangheta in gioco. Tu ti sei trasferito, gioco forza, da Reggio Calabria a Rosarno. Che cosa stai vedendo in queste ore, in questi giorni anche qui molto concitati? Sto vedendo l'assenza dello Stato. L'assenza dello Stato e l'assenza delle istituzioni locali, perché sono 25 anni che si assiste ad uno sfruttamento da parte delle cosche che dominano al 100% la raccolta e il trasporto degli agrumi. Assenza dello Stato in questi 25 anni perché nessuno ha mai mosso un dito per sanare una situazione che è illegale dalla prima all'ultima mossa. Quindi continuo a vedere questo e purtroppo credo che assisteremo ancora ad un lunghissimo silenzio, perché gli interessi dell'Ndrangheta qui hanno la meglio su tutto o quasi. Grazie a Roberto Galullo, inviato del Sole 24 Ore a Reggio Calabria in questi giorni davvero caldi, davvero particolari. L'ottavo giorno. La prima parola all'ordine del giorno nell'agenda di Obama e di questi tempi è probabilmente Yemen. Sto parlando del piccolo ma cruciale stato che si trova a sud dell'Arabia Saudita, sulla carta l'unica repubblica della penisola araba, al quale è stato collegato, o meglio alla sezione di Al-Qaeda che si trova nello Yemen, il fallito attentato di Natale sul volo Amsterdam-Detroit. Obama già domenica scorsa aveva puntato chiaramente il dito contro i colpevoli del tentato attentato e annuncia misure drastiche nei confronti di Al-Qaeda. Poi martedì parla al mondo intero dopo il vertice con i consiglieri della sicurezza nazionale americani. Tra l'altro dimostra anche un'ampia dose di schiettezza quando fa una pesante autocritica. Sentiamo su questo Sergio Nava. The system has failed in a potentially disastrous way. Il sistema di sicurezza americano ha fallito in una maniera potenzialmente disastrosa. È una missione di colpa e al contempo una denuncia durissima, quella che il presidente americano Barack Obama ha fatto ieri sera in Mondovisione al termine di una riunione ad alto livello con i massimi gradi della sicurezza nazionale. Obama ha ammesso che gli elementi sul tavolo per prevenire l'attentato del volo Amsterdam-Detroit del giorno di Natale questa volta c'erano tutti, ma non è bastato. Our intelligence community failed to connect those dots. La nostra intelligenza ha fallito nel connettere gli indizi tra di loro, ha detto Obama, lasciando intendere che l'attentato si poteva prevenire. Poi ha ricapitolato le misure antiterrorismo da poco in vigore: maggiore screening sui voli, più team antiesplosivi e sceriffi dell'aria, revisione della lista dei sospetti terroristi, maggiori controlli sui passeggeri provenienti dai paesi a rischio, soprattutto il rafforzamento della lista di non volo. Chiudendo il suo breve discorso, Obama ha usato verso Al-Qaeda toni non dissimili dal suo predecessore George Bush. We intend to target Al-Qaeda wherever they take root. Attaccheremo Al-Qaeda ovunque sia eradicata e la distruggeremo, ha promesso Obama, garantendo una protezione quasi totale in futuro da parte dell'intelligence. Come a dire, la prossima volta non sarà tollerato il benché minimo errore. Do subito il benvenuto ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore in tanti luoghi caldi del pianeta, spesso anche covo del terrorismo di Al-Qaeda e non, dall'Afghanistan all'Iraq. Buongiorno Alberto Negri. Buongiorno a voi. Naturalmente non è un caso che tu sia nostro ospite al telefono, perché tu, tra l'altro, tra i tanti paesi che hai visitato negli anni, c'è anche lo Yemen, che tra l'altro hai visitato anche poche settimane fa, poco prima di questi fatti di cronaca che lo portassero all'attenzione generale. E quindi vorrei capire, insomma, da te di fronte a che paese ci troviamo, perché, come ho ricordato prima, è l'unica repubblica della penisola araba, almeno sulla carta, però è molto fragile perché ci sono guerre interne, conflitti anche qui tra sunniti e sciiti, e poi c'è un confine molto molto labile con l'Arabia, che è praticamente disegnato lungo il deserto. Insomma, sembra il terreno ideale per Al-Qaeda e per i suoi seguaci, Alberto. Non c'è dubbio. Io sono stato in Yemen nella prima decade di dicembre, e sono andato tra l'altro proprio perché da molto tempo si cercava di monitorare un po' quello che accadeva in questo paese, dove sono in corso almeno tre conflitti contemporaneamente. Uno tra il governo del presidente Abdullah Saleh e la guerriglia sciita nel nord. Un altro tra Abdullah Saleh e i separatisti del sud, e un altro ancora con Al-Qaeda. Ebbene, in questi ultimi mesi questo quadro si è ancora più complicato, nel senso che il separatismo del sud si è un po' unito alla guerriglia della Jihad islamica e di Al-Qaeda, ed è questo probabilmente l'aspetto più pericoloso, cioè la congiunzione tra elementi del terrorismo yemenita internazionale e il separatismo del sud. Questo è il quadro della situazione di un paese, lo Yemen, che, bisogna dirlo subito, è uno dei paesi più affascinanti del mondo. È uno dei paesi più affascinanti del mondo perché Sana, ma anche molte altre città, ospitano forse una delle architetture più fantastiche, con questi grattacieli di pietra disseminati da Sana fino alle città del deserto, e che caratterizzano una civiltà antica, antichissima, una delle più antiche del mondo. Alberto Negri, in questo quadro complicato che ci hai tratteggiato, gli Stati Uniti che ruolo hanno? Perché voglio anche ricordare che in questi giorni, naturalmente sull'onda degli avvenimenti, anche il generale Petraeus, che poi è quello dell'ultima fase vittoriosa della guerra in Iraq, ora, se non sbaglio, è a capo degli eserciti americani in tutto il fronte asiatico. Insomma, Petraeus nei giorni scorsi è volato nello Yemen, chissà, forse per avere l'autorizzazione ad azioni militari americane o comunque una collaborazione yemenita, che, almeno a giudicare dai raid che sono partiti lunedì e che hanno colpito anche delle cellule di Al-Qaeda, è stata ottenuta. Insomma, siamo di fronte ad un uso della guerra di Obama, un po' come già faceva Bush precedentemente. Ma è interessante notare che il generale Petraeus è la terza volta che va in Yemen negli ultimi 12 mesi. Io ho intervistato il presidente Saleh, tra l'altro, l'ultima volta, quando sono stato a Sana, e parlando appunto della situazione del paese, la cosa che mi ha abbastanza scolpito è che lui non ha mai fatto cenno alla visita di Petraeus e di altri importanti personaggi americani a Sana, come in qualche modo voler sottolineare un certo problema che c'è di rapporti tra Washington e il governo yemenita. E qual è il problema? Il problema è che gli yemeniti non possono ammettere ufficialmente di collaborare dal punto di vista militare con gli Stati Uniti. E perché? In primo luogo perché già c'è stato un intervento internazionale di una potenza esterna, cioè l'Arabia Saudita è intervenuta col proprio esercito, con la propria aviazione, per la prima volta nella sua storia attraversando i suoi confini, per combattere contro la guerriglia sciita del nord insieme al governo yemenita. E quindi ammettere che c'è anche una presenza militare americana nel paese, beh, questo probabilmente aumenterebbe ancora di più le possibilità di Al-Qaeda di fare proseliti e propaganda in Yemen. Ma quindi il rischio è che ci troviamo di fronte ad un governo yemenita che, se non lo può dire ufficialmente, però nella pratica è alleato degli Stati Uniti nella lotta al terrorismo, e dall'altra c'è una popolazione che potrebbe essere fomentata da Al-Qaeda contro lo stesso governo, quindi la situazione è davvero pazzesca. E il fatto che Petraeus sia andato 3 volte in 12 mesi, come ci ha ricordato, significa forse che gli Stati Uniti avvertono che stanno un po' perdendo la presa nei confronti dello Yemen. Ma non c'è dubbio. È l'equazione difficilissima e complicata quella dello Yemen. È complicata per il presidente Saleh, che in qualche modo ha sempre giocato in questi 30 anni in cui è rimasto al potere, anche successivamente dopo l'unificazione tra Yemen del Nord e Yemen del Sud avvenuta nel 90, diceva sempre giocato una tribù contro l'altra, un movimento o un gruppo contro l'altro. Cioè ha utilizzato per esempio uomini di Al-Qaeda e della Jihad Islamica per combattere la guerriglia del Nord oppure per opporli ai separatisti del Sud. Quindi ha sempre giocato un po' una partita del divide e timpera che adesso sembra funzionare sempre di meno. E per gli Stati Uniti si profila una sorta di paradosso, cioè fare la guerra al terrorismo senza fare la guerra, cioè senza farla ufficialmente. In tutto questo poi l'Occidente, come purtroppo capita da diversi anni a questa parte, di fronte alle vicende, all'evolversi della situazione in Yemen, è andato un po' in ordine sparso, perché abbiamo visto qualcuno, la solita coppia Stati Uniti-Gran Bretagna, che ha chiuso d'imperio l'ambasciata, altri hanno fatto una chiusura parziale, altri ancora hanno chiesto una linea comune dell'Unione Europea. Insomma, c'è la solita confusione che regna sovrana sotto il cielo, Alberto Negri. Sì, sì, senza dubbio. Però qui c'è un problema molto, molto urgente. In questa regione c'è già uno Stato fallito, la Somalia, che si affaccia su quello stretto di Bab el Mandeb, dove ogni giorno passano 3 milioni di barili di petrolio al giorno. Quindi la comunità internazionale non si può permettere di perdere anche lo Yemen e che lo Yemen diventi anche lui uno Stato fallito. Quindi dovrà intervenire, e già la conferenza di Londra del 28 gennaio, in cui si parlerà in parallelo sia di Afghanistan che di Yemen, in qualche modo è già un segnale forte di allarme di una comunità internazionale che, hai detto bene, è andata in ordine sparso. Da una parte ci sono state le politiche americane, dall'altra ci sono quelle europee, dall'altra ancora quelle dei paesi del Golfo, che sono forse i principali e più immediati interessati a che lo Yemen non scivoli in una situazione di turbolenza. Tra l'altro, invece, in tutta questa questione degli attentati e della paura anche di nuovi attentati nei cieli un po' di tutto il mondo, tutto questo ha innescato una discussione infinita sulle norme di sicurezza, che evidentemente così sicure non sono negli aeroporti. E in questi giorni è stata fuori una nuova risorsa per fronteggiare eventuali rischi per il futuro, cioè il body scanner. Quindi cambio leggermente il discorso, ma non del tutto. Insomma, che ha trovato subito i suoi detrattori, i cultori all'infinito della privacy a tutti i costi, e qualche medico che addirittura teme dei rischi di radiazioni. Sentiamo proprio sulla vicenda del body scanner Anna Marino, mercoledì mattina. Il percorso dei controlli aeroportuali con l'arrivo dei body scanner è destinato ad allungarsi. L'annuncio parte dal ministro degli interni Roberto Maroni e da quello degli esteri Frattini, che a Radio 24 specifica come sia una scelta necessaria. La privacy delle persone è un diritto assoluto ed inviolabile, ma il diritto alla sicurezza, cioè il diritto di non saltare per aria, è la precondizione di tutte le libertà. Decisione ormai presa per gli aeroporti internazionali italiani, cominciando dagli scali considerati più sensibili come Fiumicino e Malpensa, dopo un vertice tra il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero Matteoli e il presidente dell'ENAC Vito Riggio, che si dice pronto, con 2 milioni di euro accantonati in bilancio, ad adottare gli scanner corporali e, in attesa di una necessaria certificazione europea, ad avviare una sperimentazione. E nonostante le proteste, non solo per i costi, $1 milione a dispositivo, e per la privacy, perché proietta sullo schermo immagine tridimensionale del corpo nudo, si doteranno di body scanner molti aeroporti statunitensi, olandesi, la Germania ha dichiarato il suo interesse e Londra ha promesso di introdurli gradualmente. A proposito di body scanner e di aeroporti, nei giorni scorsi abbiamo visto le scene di vero panico a Newark per un uomo che era sfuggito ai controlli, poi in realtà si è scoperto che voleva soltanto dare l'ultimo bacio all'amata, alla fidanzata, prima dell'imbarco. Alberto Negri, ultimo flash, tu di aeroporti ne hai visti tanti anche in posti difficili. Secondo te con questo body scanner vivremo meglio, saremo più sicuri? No, io sono d'accordissimo che il body scanner possa servire, figuriamoci, sono d'accordo con il nostro ministro degli esteri Frattini, ma sono anche d'accordo che ci possa essere anche una sorta di brain scanner, cioè in qualche modo un brain scanner destinato all'intelligence americana e internazionale, perché l'attentatore del volo, mancato attentatore del volo Amsterdam-Detroit, Farouk, che era stato denunciato dal padre un mese e mezzo fa alle autorità americane e forse non era stato preso molto sul serio. E forse per essere più seri bisogna considerare che ci sono due fronti, almeno in questa cosiddetta lotta al terrorismo, una guerra che sembra ormai finita. Uno è quello che si svolge nei paesi del mondo arabo e musulmano, dall'Afghanistan allo Yemen, all'Iraq e via discorrendo, alla Somalia, ma un altro è un fronte interno ai paesi occidentali. L'imam Avlaki, che è andato in Yemen, è un cittadino americano che si è laureato in una università americana in ingegneria. Farouk è padre e figlio di un banchiere che si stava laureando in ingegneria al College di Londra con una retta di $25,000 all'anno. Qui stiamo parlando anche di persone che appartengono a quella borghesia musulmana che in qualche modo sta vivendo una forte lacerazione. E anche questo è uno dei punti su cui noi dovremmo fare più attenzione. Grazie ad Alberto Negri, come sempre ci hai lasciato nel finale con delle provocazioni molto interessanti su cui riflettere. L'ottavo giorno. Abbiamo ancora una decina di minuti da passare insieme, quindi altre notizie da aggiornare, da ricordare di questi 7 giorni. Per esempio, ieri c'è stata la condanna a 16 anni per i 4 romeni accusati di aver violentato il 21 gennaio di un anno fa una coppia di fidanzati a Guidonia. Naturalmente i dettagli nei GR anche credo nel corso di questa giornata. Invece noi facciamo una netta, decisa virata verso lo sport, che ha offerto spunti interessanti, non tutti per la verità commendevoli, in questa settimana anche di festa, ma non solo. Intanto c'è il calcio, naturalmente, che ha giocato il giorno dell'Epifania dopo una lunga pausa eterna che quest'anno è stata criticata un po' da tutti, soprattutto quando si è fatto il confronto con altri campionati esteri, per esempio quello inglese che ha giocato persino il 26 dicembre. Questa giornata dell'Epifania ha offerto una novità che poi in realtà non è del tutto inedita, non è assoluta, e cioè una partita alle 12.30, a mio avviso orario scomodissimo, però tant'è, così vuole Sky probabilmente, così si farà anche in futuro. La partita in questione era Chievo-Inter, che è stata vinta sul campo dall'Inter sempre più capolista, però la partita ha fatto notizia peraltro, perché siamo di fronte soprattutto all'ennesima vicenda legata a Balotelli e allo sfogo che il giocatore dell'Inter ha fatto a fine partita quando, forse esasperato da qualche coro nei suoi confronti, ha detto a chiare lettere: il pubblico di Verona mi fa sempre più schifo. A mio avviso, in questa vicenda, che molti hanno commentato in modo completamente diverso, molte cose però non mi sono tornate. Per esempio, primo punto, Balotelli ha indubbiamente spesso dei modi un po' arroganti, anche se in fondo sono comprensibili per i 19 anni che ha, spesso provoca in campo anche gli avversari con i suoi atteggiamenti che non seguono proprio il galateo del calcio. Però, secondo punto, se un giocatore arriva a fine partita a dire certe cose, non credo sia del tutto impazzito, credo che un motivo in qualche modo ci sia. E pur ammettendo, insomma, che Balotelli forse ha esagerato, perché le sue parole sono state un po' eccessive, e tra l'altro anche ieri si è parzialmente scusato, quindi ha fatto una retromarcia di quello che ha detto, mi ha colpito il riflesso incondizionato di autoassoluzione che il calcio, ogni volta che viene messo sotto accusa, mostra in questi casi. Insomma, mi sembra di capire che il calcio non vuole poi molto parlare di razzismo e di soluzione al problema del razzismo. Detto questo, vi faccio riascoltare due punti di vista molto più autorevoli del mio, che sono andati in onda in questi giorni su Radio 24 e su cui poi ognuno potrà naturalmente trarre la sua conclusione sulla vicenda. Prima di tutto Gigi Garanzini e poi Osvaldo Bagnoli, allenatore del mitico Verona campione d'Italia nel 1985, intervistato da Massimo Di Scienza. Non ha ancora 20 anni, ma la sua è già una vecchia storia. La storia di un giocatore, Mario Balotelli, e della sua impossibilità di essere normale. In uscita, per via degli atteggiamenti in campo, insofferenti delle regole scritte e non scritte, spesso indisponenti. In entrata, per il trattamento che ormai puntualmente riceve, quasi su qualsiasi campo. Quello riservato ieri dal pubblico del Chievo, stando a testimonianze di persone per bene, quali il presidente del Chievo stesso Campedelli, non è stato dei peggiori. Duro, ostile, reiterato, ma indirizzato sempre a fidarsi e deludito ai presenti, al giocatore dagli atteggiamenti antipatici, non al ragazzo della pelle nera. Quasi un'accoglienza di favore, se paragonata ai cori che gli vengono dedicati altrove, da altre tifoserie, anche in sua assenza, in contumacia. Eppure Balotelli è sbottato ieri. Il pubblico di Verona mi fa sempre più schifo. È possibile che per una volta sia stato lui ad andare oltre, ma se proviamo a mettere in conto tutte le volte in cui ad andare oltre, ben oltre, a ritmargli gli insulti del peggior repertorio razzista furono gli altri, il suo fallo di reazione ci può stare. Senza illuderci che questa storia già vecchia sia destinata a un lieto fine, difficile che Balotelli maturi in tempi brevi, ancor più improbabile purtroppo che la maturazione riguardi le frange estreme del tifo di casa nostra. La tifoseria del Chievo mi sembra poi tranquilla e mi pare che sia stata anche premiata, mi sembra, per il suo modo di far tifo, insomma, ecco. Dire certe cose verso la tifoseria ha confermato che questo ragazzo qua, perché è un ragazzo, insomma, probabilmente deve imparare tante cose, insomma, ecco. Le cose hanno peso secondo chi le dice, per conto mio. Qua l'ha dette Balotelli, e perciò è un ragazzo giovane. Nessuno può negare che ha delle grandi qualità calcistiche, però probabilmente deve imparare a stare l'educazione, via, ecco. Io penso che chi può migliorarlo sono solo i suoi compagni di squadra. Se non riescono a migliorare i suoi compagni di squadra, posso anche pensare che neanche con i genitori e con gli amici intimi possono succedere certe cose. Perciò io la penso, ho questo, la penso così e lo dico, insomma, ecco. Finora ci è toccato parlare del lato brutto del calcio di oggi, allora cerchiamo di rimuoverlo, di dimenticarlo facendo un po' un salto indietro. Infatti in questa settimana sono stati celebrati i 50 anni della mitica trasmissione radiofonica Tutto il Calcio minuto per minuto, le voci di Ciotti, Ameri, Luzzi, Foglianese e tanti altri. Giovedì è stato anche presentato un altro pezzo storico del nostro calcio, ovvero l'album Panini delle figurine per il 2009. A raccogliere le figurine per Radio 24 c'era giovedì Savino Gallo, che si sarà sicuramente divertito. Per anni la figurina introvabile, quella che ha fatto impazzire migliaia di collezionisti di album Panini, è stata quella di Pizzaballa, portiere che tra gli anni 60 e 70 vestì le maglie di Atalanta, Roma e Verona, una categoria speciale di cui ci parla il direttore commerciale Panini Antonio Allegra. Si tratta di 12 figurine di grandi campioni in azione in un gesto spettacolare, autografate in originale dai 12 giocatori, quindi per ogni giocatore esistono 50 figurine autografate, quindi in totale sono 600 figurine che saranno inserite in tutte le bustine, in maniera casuale, in tutte le bustine in commercio, e quindi potranno essere trovate dai collezionisti molto molto fortunati in questo caso. È questa la novità principale dell'album Panini 2009-2010 che, come sempre, oltre alla Serie A darà spazio a Serie B, Lega Pro e campionato femminile. Una sezione, quest'ultima, che la Panini ha voluto dedicare alle donne che da anni sono fedeli all'album dei calciatori. Secondo Allegra sarebbero il 7% del totale, ovvero circa 150.000 su oltre 1.600.000 collezionisti. Martedì, nuovo capitolo, e non credo sarà l'ultimo, dell'affare Briatore. Stiamo parlando di Formula 1, perché l'avevamo lasciato l'anno scorso, radiato dalla Formula 1 per aver tramato l'autoincidente di Piquet Junior nel Gran Premio di Singapore del 2008 con la Renault. Oggi invece la scena è stata completamente e forse anche un po' sorprendentemente ribaltata. Da Parigi il servizio dell'inviato Igor Fiatti. Le ostilità tra la FIA e Flavio Briatore non sono affatto terminate. Con un comunicato diffuso in serata, la FIA ha infatti annunciato l'intenzione di ricorrere in appello contro l'annullamento della radiazione di Briatore dalla Formula 1. Insomma, è pronto il ricorso contro quanto deciso dal Tribunale di Parigi. E alla FIA si sottolinea che la radiazione dell'ex capo della scuderia Renault resterà in vigore fino a quando tutti i gradi di giudizio non saranno espletati. Alla base dello scontro legale, ricordiamo, c'è il cosiddetto caso Crashgate. Con l'accusa di aver architettato l'incidente volontario di Nelsinho Piquet nel Gran Premio di Singapore 2008, la FIA aveva messo Briatore fuori dalla Formula 1, una radiazione che il tribunale parigino ieri ha dichiarato non valida, ma questa sentenza non è andata giù a quelli della FIA, che non sono per nulla disposti a veder negata la propria autorità. Intanto però c'è tutta la felicità di Briatore, che ha detto di aver provato una gran gioia. Ultimi minuti per un paio di divagazioni, usciamo dal canale sport di questa settimana, perché è stata anche la settimana della Befana e dunque la settimana della Lotteria Italia, delle premiazioni finali. Una volta era un appuntamento sacro, imperdibile, c'era lo spettacolo, il varietà del sabato sera che santificava poi questo evento e lo trainava in realtà da settembre fino al 6 di gennaio. Quest'anno invece si è arrivato al minimo storico nella vendita dei biglietti. Sentiamo come e perché in questo servizio di Federico Maselli. Incredibile ma vero, la Lotteria Italia dopo 31 anni non fa più gola. I monopoli dello Stato hanno dovuto registrare il 37% in meno di biglietti venduti rispetto all'anno scorso, un flop che non si verificava dall'edizione 1978-1979, quando furono staccati 9 milioni e mezzo di tagliandi. I biglietti venduti sono stati soltanto 11 milioni e mezzo, mentre nel 1988, anno record, parteciparono all'estrazione 37 milioni e mezzo di italiani. Il flop della Lotteria Italia, ex lotteria di Capodanno, è andata di pari passo con gli ascolti della trasmissione abbinata Affari Tuoi Speciale per Due, condotta da Max Giusti. A seguirla 4 milioni e mezzo di italiani. Meglio la Carrà l'anno scorso, con il suo Carramba che fortuna, visto da più di 5 milioni di persone. E ora ci si interroga. È forse colpa della trasmissione se sono stati venduti così pochi biglietti? E per chiudere voglio dedicare un giusto tributo a Beniamino Placido, morto a 80 anni il giorno della Befana. Questo l'epitafio del grande scrittore e critico che ha fatto per Radio 24 Gianluca Nicoletti. Beniamino Placido ha inaugurato una metodologia di lettura televisione assolutamente originale. È un punto di passaggio fra quei critici che vedono ancora la televisione come un addentellato, un appendice di altre attività espressive come il teatro, come il cinema e come la letteratura, e come tale la trattavano. A un certo punto Placido cominciò a guardare la televisione come una grande metafora dell'esistenza, e quindi creando una linea comune, indissolubile, tra mondo della televisione e mondo della realtà. Prendeva episodi di banalità quotidiana o di quotidiana facezia o riferimenti letterari allo stesso tempo, cercando di fare quel lavoro meraviglioso di contaminazione tra basso e alto che rendeva veramente il senso di quello che era la televisione in quel periodo, direi fortunato, che va dall'inizio della televisione diffusa con una molteplicità di reti, di possibilità espressive, e il fatale termine per cui anche lui smise a un certo punto di parlare di televisione, in cui la televisione smise di essere un mezzo, smise di essere un medium, smise di essere un'attività felicemente espressiva dei desideri, delle velleità dell'umanità, e diventò un fine, diventò qualcosa che gli uomini volevano come certificazione della propria esistenza. È tutto per la puntata di oggi, ottavogiorno@radio24.it, la nostra mail. Ringrazio in regia Alessandro Chiappini e vi do appuntamento a sabato prossimo alle 9 oppure in replica alle 23, naturalmente sempre su Radio 24.